Giappone sempre ama Italia, amiamo Italia, cibo, la moda e anche arredamenti. E quindi io ho venuto qui in Italia nel 1969, molti anni fa, ma continua, sempre mi piace, sempre di più. non so come mai, ma forse qui la gente è simpatici, sì. Si mangia bene, forse. Poi fondamente molto somigliamo, non so come mai. Qui Milano, costruito questi 50 anni, è sogno per la gente, non solo per l'Italia, ma noi anche Oriente e anche mondo. Ma tantissimi gente vengono qui a Milano perché vogliono un po' futuro, sogno. Noi guardiamo da Giappone sempre Europa, design Italia oggi. Però qui Europa guardano Oriente. E quindi scambiamo oggi, comincia. Per esempio quella del cibo, sushi. Noi abbiamo spaghetti ormai. Tutte le case mangiamo normalissimi spaghetti. Quindi c'è questo scambio. E scambio oggi. Funziona. Funziona. Una domanda invece appunto più sul mestiere del designer. Quindi da dove viene l'ispirazione di una carriera, dico, lunga, sì. No? Ma parole come design, oggi è grande parole design, tutto il mondo, anche Cina, eh? Cina è design, è nostro risorsa, ha detto il governo cinese, così. Quindi tutto il mondo questa parola design è importante. Per me design è molto importante, non solo come estetica, colori, ma funziona, sicurezza. Poi pensa per un altro, poi economia. E anche cultura, ha tutto dentro questa parola di design, c'è dentro, molto concentrato questa parola. Quindi oggi questo design, ormai centro design mondiale, qui Milano, secondo me, importante.